Il conflitto fra le donne, esplorazione di un tabù sulla traccia del suo dono. Premessa. Sulla traccia della sfida. Ero parte attiva del conflitto fra donne. L'ho vissuto, subito e agito. Credo di sapere di che cosa parlo, cosa si prova, come cambia il metabolismo, il campo, l'umore, la vita. A un certo punto, spinta e sostenuta dalle pratiche di spiritualità femminile che seguivo da diversi anni e che erano diventate per me un faro nel mezzo di un corposo groviglio di confusione, non potevo più ignorare la regolarità e lo schema con cui si imponeva nella mia vita il conflitto con amiche, colleghe, conviventi. E così mi sono assunta la responsabilità di quel che stava accadendo, visto che si trattava della mia vita. Intuivo che in qualche modo ero coinvolta come causa. Dato che succedeva sempre a me, anche se soffrivo terribilmente nelle situazioni di conflitto ed ero molto propensa a delegare tutto il torto verso l'esterno, cioè verso l'altra donna. Non riuscivo assolutamente a concepire le atrocità che di colpo potevano insediarsi in relazioni che prima sembravano floride e divertenti. Non capivo come rapporti ricchi, gioiosi, armonici potessero trasformarsi a volte all'improvviso. A volte con dinamiche più articolate, messe in luce da analisi col senno di poi, in emozioni laceranti e devastanti, in scissioni irreparabili e definitive. Sono passati un po' di anni e le mie ricerche in questo campo mi hanno portata a constatare che il conflitto fra le donne è il palcoscenico su cui si riversano l'interesse politico che mira a tenerci divise. I ricordi delle atrocità vissute in 5.000 anni di patriarcato e gli effetti della totale mancanza di una cultura a noi idonea nella società attuale. Si chiarirà nel corso del testo che questo enunciato per me non significa assolutamente abbandonarsi al vittimismo, ma ci spinge invece a riconoscere lo stato esistente, dandoci la possibilità e l'incoraggiamento a riprenderci la responsabilità per gli avvenimenti della nostra vita, in modo da riacquisire il potere di gestirla, secondo paradigmi degni, autentici, creativi e divertenti. Il conflitto fra le donne non si risolve cambiando soltanto il comportamento relazionale, ma cambiando cultura su un livello più radicale e profondo. È questa la mia proposta e cercherò di declinarla gradualmente e circolarmente nelle pagine seguenti. La mia competenza, che non domanda di essere creduta, ma invita a essere convissuta, si fonda sul legame ritrovato e coltivato con il nucleo divino di ogni manifestazione della vita e sulle facoltà acquisite nel mio cammino. Confido nella possibilità di essere tramite per un sapere altro, più ampio, che mi auguro possa essere utile per estendere le visioni e le emozioni delle nostre esistenze e per condividere una proposta luminosa di co-creazione culturale con compassione e divertimento nel multiverso della quotidianità. Mi avventuro in questa esplorazione rimanendo fedele a quello che sperimento nella mia vita e con le donne con cui lavoro, a quello che ho raggiunto sulla scia della sfida, della paura, della memoria e della brama, sorvolando abissi e rischiarando sentieri abbandonati. Scrivere questo testo per me è stato un lungo viaggio pieno di svolte inaspettate, di ripidi scogli talvolta faticosi da superare. A volte mi sentivo come in una piccola barca in alto mare, a reggere con tutta la mia forza il timone per non perdere di vista la meta, la terraferma che appena si intuiva là in quella direzione. A volte è stato come sgranocchiare pietre per districare queste tematiche ostiche, scivolose con le loro tante trappole di confusione e sovrapposizione. Fin dall'inizio ho conosciuto un grande sostegno e riconoscimento, e senz'altro è stato ciò che mi ha portata avanti, oltre all'abitudine artigianale di finire un pezzo con cura anche quando le idee cavalcherebbero in colline lontane, già da un bel po', se non tenute ferme dal guinzaglio della disciplina. È stato un viaggio lungo. Forse è soltanto un inizio, forse si conclude qui. Mi ha richiesto di analizzare a fondo tanti aspetti che finora avevo soltanto sfiorato, di verificare quei sentimenti e quelle intuizioni, quei collegamenti e quelle associazioni che aspettavano lì da tanto tempo. Mi ha temprata nello scoprire schemi e meccanismi perché non mi è mai possibile rimanere da una parte, non essere quella coinvolta per prima. È stata la vita che mi ha sempre puntualmente fornito con un avvenimento, una parola, un discorso, un sentimento, una percezione, le ispirazioni per continuare, come l'inaspettato spuntare di indicazioni sul sentiero nel bosco fitto e sconosciuto. È stata la schiettezza delle donne meravigliose che mi circondano a non concedermi scappatoie comode. Questo, il sentirmi circondata da un'intelligenza indipendente e ricca di opinioni maturate, generosa e inflessibile, è stato davvero un grande regalo. Prima parte, un passo allo scoperto. Il legame tra le donne è la forza più temuta, più problematica, la forza col più alto potenziale di trasformazione del nostro pianeta. Adrienne Reich. Con lo zero iniziano le danze. Il conflitto fra le donne non è un problemino che hanno le donne fra loro. È un fenomeno che accompagna la storia della sottomissione e dell'estinzione della cultura al femminile e del distacco dalla fonte originaria della vita che caratterizzano il patriarcato. All'interno del suo sistema, le donne difficilmente ricoprono con naturalezza posizioni di potere e hanno perso la connessione disinvolta con la loro intelligenza intuitiva. Il conflitto fra le donne è espressione di questa carenza, di questo dolore, di questo disagio profondo e di questa memoria traumatizzante. È un argomento politico riversato sul livello interpersonale. Per affrontarlo e riconoscergli il potere che esercita dal suo nascondiglio segreto e l'ingombro che costituisce nella vita delle donne, bisogna tirarlo fuori dalla sua posizione di tabù, da cui sussurra «non esisto», oppure «ma questo è del tutto normale». Bisogna estendere lo sguardo, lasciare che compia un giro panoramico, che includa i concetti sociali e politici alternativi al patriarcato, per poter percepire la carenza emotiva e spirituale della situazione attuale, vedere che le nostre vite siano determinate da interessi politici e commerciali e accorgersi che una necessità spirituale fondamentale è stata confinata sul solo livello umano. La necessità cioè di essere connessi, fondersi con l'essenza della vita, essere particella minuscola e responsabile di un contesto grande, magico e meraviglioso. L'analisi profonda del conflitto fra le donne ci offre in dono le proposte e visioni di società incentrate sulla dignità della donna e in sintonia con la natura, che considerano la terra un essere rispettabile quanto noi stesse. L'uno scisso imprescindibile, la precarietà. Il conflitto fra le donne è un fatto diffuso, ma considerato faccenda privata, sofferto ma taciuto, un tabù che determina la vita di quasi tutte le donne, senza essere analizzato e compreso nelle sue implicazioni oltre alla sfera personale. Distrugge alleanze, società d'impresa, associazioni, convivenze, amicizie, relazioni tra familiari, amanti, parenti, colleghe. Si insinua in congreghe apparentemente perfette, si allarga inaspettatamente a macchia d'olio, avvelenando rapporti che sembravano sani. Si intrufola di nascosto per uscire all'improvviso allo scoperto. Arriva come un fulmine in un momento di rilassatezza. Capita che l'atmosfera nella situazione di lavoro fra donne si impregni di astio, che si faccia raro il divertimento e l'umorismo, che non ci si stia più bene dentro, senza poter comprendere come mai, cosa sta succedendo. Il conflitto fra le donne inibisce collaborazioni consolidate, ostacola la riuscita dei progetti delle donne, impedisce quel sostegno trasversale necessario per creare delle realtà a noi idonee. Toglie credibilità alle donne a livello individuale e politico, alle associazioni di donne raggruppate per varie finalità, all'espressione professionale, all'ambizione di contribuire all'andamento di questo mondo. Sarà difficile diventare idonee al crescente e fondato richiamo a gestire con più presenza e autorevolezza femminile le questioni personali, locali e globali, se non affrontiamo la tematica del conflitto fra le donne tirandola fuori dal cassetto del privato, dove sta nascosta tra mutande e reggiseni, universi emozionali reconditi e intuizioni inascoltate, saperi proibiti e sofferenze mai ammesse. E questo vale sia che si scelga di entrare negli ambiti politici e imprenditoriali, dove si prendono decisioni di larga portata e si esercita un potere ad ampio raggio, sia che ci si indirizzi verso le comunità degli ecovillaggi o modelli di convivenza come quello matriarcale. Sono state elaborate nuove modalità di relazione, come la comunicazione non violenta, la politica del consenso, l'arte della mediazione e altre. Strumenti molto preziosi e indispensabili, ma per esaminare la tematica del conflitto fra le donne e arrivare alle sue origini profonde, occorre esplorare in modo lineare e contemporaneamente circolare, annullare l'illusione della distanza temporale e dell'isolamento fra le donne, sviluppare la consapevolezza del tessuto in cui ognuna intreccia il suo vissuto. Il rapporto fra le donne, che ci dona tanta familiarità e sorellanza, sembra poter trasformarsi in ogni momento in litigi devastanti. Stenta a trovare il suo equilibrio, costantemente minacciato da una precarietà latente che emerge da altri piani. Finché non affrontiamo questa precarietà, ampliando lo sguardo oltre i limiti delle definizioni di privato e di personale, non possiamo iniziare a costruire con le altre donne un vissuto credibile e stabile che ci permetta di attuare il cambiamento richiesto con urgenza in questa fase di sconvolgimento epocale. Anche se tante delle tematiche e delle dinamiche del conflitto che andremo a elaborare valgono per tutti i sessi, incluso il caleidoscopico spazio fra maschile e femminile, vorrei concentrarmi sul conflitto tra le donne facendo sia una distinzione personale che politica. Essendo donna so di cosa parlo, conosco le sfere emozionali e spirituali dove le donne possono arrivare e agire. Ma non possiedo la stessa certezza se si parla degli uomini. Nel mio essere donna rappresento una composizione chimica precisa e inconfondibile che, risuonando nelle altre, amplifica gli effetti del vissuto di ciascuna e riporta a galla 5.000 anni di patriarcato e di conseguenza la cancellazione della nostra dignità. Pur ammettendo che questo andamento storico abbia avuto un impatto importante e innegabile anche sugli uomini, credo che la nostra esperienza sia diversa, vissuta da un'altra posizione nei confronti del potere e con una composizione interna che provoca altri effetti sull'anima e influenza diversamente il nostro sentiero. Ciò nonostante, sarò contenta di ogni lettore maschio che si volesse avvicinare con interesse e curiosità alla tematica di questo testo. Mi riservo però di scrivere principalmente al femminile e invito a sperimentare la condizione di leggersi maggiormente nella declinazione dell'altro sesso, poco discussa e quasi sempre presente nella quotidianità delle donne lettrici. Prima di addentrarci nella giungla, mi sembra utile esporre il mio uso della parola femminile e di conseguenza anche maschile, visto che abitualmente questi termini sono usati come scatole chiuse, con significati sottintesi, in cui però ognuna può infilare un po' quello che le pare o conviene. Uso il termine senza nessuna valutazione comparativa, evidenziando semmai il valore della differenza. Cerco di limitare il suo significato alla sua funzione sostitutiva da o di donna e di precisare i suoi contenuti. Al di là delle associazioni spesso e inconsapevolmente connotate da un sapore di inferiorità, ci sono delle caratteristiche che indiscutibilmente descrivono la donna. Il sapere della nascita e della morte, la ciclicità della vita espressa nel suo ciclo mestruale e quindi un modo di ragionare, nel senso di intuire, pensare, analizzare, progettare, circolare, invece della modalità diretta e lineare maschile. Ritengo spesso discriminante l'uso consueto che viene fatto oggi dei termini femminile e maschile, per le donne quanto per gli uomini, per le attribuzioni di caratteristiche che privano, ad esempio, gli uomini di ogni possibilità di sensibilità e intelligenza intuitiva e le donne dell'impeto decisionale. Cosa sta succedendo? Proviamo a prescindere per un momento dalle condizioni che solitamente ci sembrano le uniche possibili e realizzabili, e lasciamo che l'opzione patriarcato sia affiancata da altre proposte sociali e culturali, che come le società matrifocali e matrilineari, sia storiche che attuali, che prevedono il rispetto per tutto il vivente espresso nella modalità economica, sociale, spirituale e politica. Con il termine patriarcato, che approfondiremo più avanti insieme alle società matrifocali e matrilineari, definisco una società che si è distaccata dal legame naturale con i ritmi della terra e del cosmo, quindi anche con l'abbondanza della natura, dalla saggezza intrinseca della vita stessa, dalla comprensione di essere figli e figli di un contesto che va molto oltre a livello umano. Nel patriarcato vigono le leggi della scarsità e della paura. Astrazioni utili a mantenere il controllo e perseguire un arricchimento personale necessario per colmare la mancanza isolante del collegamento all'uno, al tutto niente. Esplorando l'argomento, quindi, da un punto di partenza che prescinde dall'opzione finora accettata come unica regola, la situazione attuale può iniziare ad apparirci un po' strana e può diventare alienante prendere visione delle condizioni interiori ed esteriori in cui ci si trova attualmente. Anche se in tante, per l'adorabile arte di trovare comunque godimento, appagamento, gioia e senso della vita, si sono inserite di buon grado nelle leggi della realtà attuale, in fondo, questo comportamento rimane un adeguarsi in mancanza di alternative reperibili, partendo invece da una visione di dignità indiscussa della vita stessa. Si può constatare come la donna oggi possa sembrare piuttosto spaesata, non dimorando e non essendo riconosciuta nel suo essere creatrice e danzatrice della soglia fra il formato e il non formato, nella sua connessione con una sacralità naturale. In seguito possiamo immaginare quello che con grande probabilità succede nel contatto fra le donne a un livello inconscio, in misura più o meno consistente, con conseguenze più o meno drammatiche. Un incontro è riflesso della propria condizione sottomarina, una risonanza della confusione, dello spaesamento, della speranza e della disperazione, delle potenzialità inagibili, e di trovarsi comunque fuori dalle regole. Possiamo provare a testimoniare il dispiegarsi degli intrecci che possono nascere. L'adesione immediata nel ritrovare la frequenza energetica familiare tra le donne, le illusioni che si infrangono appena si incontrano, le proiezioni dei desideri e delle paure profonde, la disperazione riguardo alle impossibilità e ai limiti imposti, l'accorgersi delle incoerenze e dell'appartenenza a delle realtà socioculturali insufficienti per l'indole intima e autentica. Il campo in cui ci si mette in gioco è dunque terra fertilissima per qualunque tensione e difficoltà nel rapporto. Nessuna può sentirsi davvero a suo agio in un campo in cui la nostra autonomia sembra dimorare nella scelta di quale ruolo predefinito svolgere, nessuno dei quali corrisponde del tutto all'indole illesa, all'essenza sacra della donna. Il conflitto fra le donne nasce e si svolge in un ambiente in cui nessuna è a casa. Si parte quindi da un disagio di fondo, da una mancanza, una povertà, un dolore, una ferita, una paura, in un contesto in cui non esistono paradigmi per poter essere donna con dignità. Il patriarcato è la cornice che attualmente detta le condizioni della vita sociale e politica della maggior parte della popolazione su questa terra. Ha cominciato a dilagare in tutto il mondo a partire da circa 5.000 anni fa, lasciando poche isole di matriarcato che hanno preservato fino ad oggi, qualcuna di più, altre di meno, alcuni paradigmi originari di convivenza in stretto contatto con la sacralità della vita, espressa dal rispetto per la donna come centro della comunità e per la natura come dispensatrice di nutrimento e benessere. Nel suo cammino di conquista e nel suo paradigma di dominio, per la prima volta una popolazione della Terra ha modificato degli attrezzi per usarli come armi contro gli esponenti della stessa specie. Sull'argomento è ormai disponibile una valida e vasta letteratura, in primis le opere di Maria Gimbutas e di Irene Eisler. provocando distruzione e devastazione ovunque passasse. Si diffonde una cultura che non tollera ancora oggi la diversità religiosa e che impone la supremazia maschile su esseri umani, animali e terra, cancellando la cultura della dea, esistente da millenni, ricca di infinite sfaccettature, e basata sul contatto rispettoso con la terra, riconoscente verso la donna per la sua saggezza interiore negli ambiti della vita e della morte, per la sua capacità corporea di fare e disfare, per il suo danzare sulla soglia delle leggi della materia. Attraverso oppressioni, leggi gerarchiche, sottomissioni, violenze, umiliazioni e minacce, pietrificata da una religione che non permette più di festeggiare la sacralità della vita, ma che si affida ai messaggeri di un Dio geloso, signore delle guerre e delle conquiste violente, la donna impara, per pura sopravvivenza, a obbedire alle regole astratte del governo degli uomini, mentre viene relegata in uno stato di inferiorità spirituale, emozionale e legale. Non è possibile uscirne senza ferite. Non importa con quanta intensità e con che avvenimenti questa imposizione sia stata vissuta personalmente. Siamo comunque collegate tramite una corrente condivisa di memoria, in cui è contenuta tutta la storia. Ma nella stessa corrente è contenuto anche il ricordo di prima dell'avvento del patriarcato. Tracce di memoria ci riportano all'essere rispettate nella naturalezza dell'essere profondamente collegate con la natura. Visioni, sogni e nostalgie ci narrano altre opzioni di essere, in dignità, con gioia, senza dover lottare per o contro, senza la costrizione di regole, festeggiando ovunque il miracolo della vita stessa, nella consapevolezza di esserne parte divina e illuminata. È un'impresa difficile parlare dei concetti di Dio o di Dea in un testo che non è religioso e non vuole esserlo. Lo faccio nell'intento di raccogliere ed evidenziare dei principi che si rispecchiano nel concetto sociale e politico della convivenza. Nel patriarcato, espressione politica di una religione con un Dio unico, maschile, dominante, viviamo all'interno di un'organizzazione gerarchica, ammorbidita nella democrazia rispetto alla monarchia o dittatura, ma sempre comunque onnipresente, in tutti gli ambiti, che si riflette altrettanto nel rapporto fra gli uomini e le donne, che accettano maggiormente e senza dubbi la supremazia dell'uomo ancora oggi. L'esigenza di un Dio che afferma che chi non sta con lui è contro di lui, crea il presunto diritto alla gelosia, all'intimidazione e distruzione di chi si volge da un'altra parte, di chi gli nega sottomissione e attenzione, e questo si riflette nel fenomeno della violenza contro le donne e nella violenza fra gli uomini, fra popolazioni e fra stati. Il concetto di Dea non è la contrapposizione femminile di quello di Dio. Come altrettanto il matriarcato non è il patriarcato a rovescio, con le donne che comandano, come ancora oggi spesso viene interpretato, nonostante che da più di 100 anni, da quando è nato il termine con le ricerche di Bachofen, si parli di altro. Il termine Dea significa la sacralità della vita in ogni sua manifestazione, significa la ciclicità nel suo processo di nascita, crescita, fioritura, deterioramento, morte e rinascita. La Dea, come l'Artemide di Efeso con i suoi tanti seni, nutre chiunque con il suo amore incondizionato nel suo paradigma di equivalenza e non ha obiezioni alla venerazione di una delle sue rappresentazioni piuttosto che dell'altra, perché è tutto lei, è tutto vita. È colei che accoglie le diversità e trascende i confini della vita e della morte, è colei che sa ed è sempre. La mia predilezione è palese, perché tendo sempre lì dove è consentito, anzi gradito, ridere, scherzare e ballare. Credo che ogni sistema autentico e integro, collegato davvero con il succo eterno del creato, non tema l'umorismo e la sensualità, tantomeno l'autonomia e l'uguaglianza. Non mi addentro nel perché sia avvenuta la svolta storica verso il patriarcato. Non credo che sia possibile, almeno per me, avere uno sguardo tanto ampio o una comprensione così illuminata per poter cogliere nemmeno a grandi linee tutte le implicazioni che riguardano non soltanto il livello umano, ma quello della Terra stessa, dei movimenti cosmici, dei cambiamenti epocali di cui siamo parte e artefici in servizio. Non voglio pensare che perfino la più piccola cosa che succede sia senza un senso. Voglio cogliere l'occasione che mi offre la mia esistenza ora e qui per crescere ulteriormente e proporre la mia partecipazione a un possibile miglioramento partendo dal piccolo ambito a me accessibile che sono io. In un ambito di lotta sociale o politica, quello che succede nel conflitto fra le donne si chiamerebbe guerra fra poveri. È utile ammettere che stiamo sul gradino inferiore di un sistema gerarchico imposto con metodi violenti, a cui abbiamo dato il nostro consenso, sotto minaccia di vita, in privazione della nostra dignità. Il sapere e gli stili di vita, sopravvissuti fino all'Inquisizione, che ancora erano sorretti dalla naturale competenza della donna nella guarigione, nella nascita e nella morte, nella costruzione, nell'artigianato e nell'arte, nella celebrazione dei movimenti della terra, le 8 porte dell'anno, ricorrenze che sono state trasformate in festività cristiane dopo che era stata occultata la loro origine nella natura stessa, hanno provocato la furia di un olocausto di massa rivolto maggiormente contro le donne, che ha cementato la paura, la sfiducia e la scarsità come basi indiscutibili della cultura patriarcale. Ci siamo dentro ancora oggi? Come ci si può sentire a casa, a proprio agio, sicura e riconosciuta in un ambiente così astioso? Poiché la storia è sempre scritta dai vincitori, di tutti questi fatti ci è noto ben poco. Quello che percepiamo come una musica di sottofondo e che si avverte scrutando con determinazione, allenamento e intenzione mirata è il consenso alla propria inferiorità nei confronti dell'uomo. Quel non essere degna che si esprime in disuguaglianze che vanno dal reddito per il proprio lavoro al valore sociale, culturale e politico. Anche se non desidero alimentare vittimismi, è comunque utile riconoscere che il rapporto fra gli oppressi è altro da quello con l'oppressore. In un mondo in cui solo una minima percentuale delle risorse economiche è nelle mani delle donne, che sono la maggioranza della popolazione, una minima percentuale della classe dirigente costituita da donne, in cui la violenza contro le donne è spesso ancora oggi considerata un elemento naturale della società e in cui il commercio del corpo delle donne è un affare fiorente, per citare soltanto qualcuno degli infiniti elementi che si potrebbero menzionare. Il femminismo non è obsoleto, non esiste parità. In questa chiave, il conflitto fra le donne ha altre caratteristiche rispetto al conflitto che si manifesta con un amico, un compagno, un partner lavorativo, un capo, oppure il conflitto con istituzioni come la polizia, l'amministrazione e l'apparato giuridico. Fra le donne c'è un elemento di speranza celata che ci avvicina istantaneamente ed elimina la diffidenza. Lei mi deve essere sorella, compagna, sostenitrice, mi deve comprendere. Se non lei, chi? La speranza di giustizia e di dignità è rivolta all'unica che può comprenderne la complessità, la profondità e l'urgenza, l'altra donna. È su questa speranza che viaggia il tradimento. Trovandoci ognuna in uno stato più o meno desolato, è facile non poter essere all'altezza di questa richiesta spesso implicita. Il tradimento, la delusione per il salvataggio mancato, riaccendono la risonanza del ricordo che giace sotto le stratificazioni degli schemi di sopravvivenza e si possono ripresentare in comportamenti che sembrano poco appropriati, spostati, fuori luogo. E si ricomincia, in assenza di una collocazione e comprensione adeguata dei fenomeni con l'umiliazione. Il tabù e dove ci porta. Normalmente il conflitto fra le donne viene percepito come una faccenda privata e tacitamente accettato come condizione normale, senza un'analisi del momento storico del tessuto politico-sociale, del paradigma della nostra società civilizzata in cui si manifesta. Ci sono due principali contestazioni sollevate di frequente quando si parla del conflitto fra le donne, che poggiano su un pensiero generico e non di genere, come se non si fosse arrivate o arrivati a comprendere fino in fondo il significato rivoluzionario del femminismo per la nostra società di oggi e di domani. La prima dice: io non ho conflitti con le donne e non li conosco, non esistono nella mia vita. Senz'altro ci sono donne che non hanno esplosioni conflittuali in atto o nella loro storia personale, lacerazioni aperte o sfuriate pubbliche, e che stanno bene più o meno con tutte e con tutti, essendo bravissime diplomatiche, capaci di gestire situazioni precarie. Ciò non vuol dire però che non conoscano il conflitto e che non ci sia. A volte si svela nell'irritata osservazione del comportamento conflittuale di amiche, incompreso come tale e piuttosto considerato una noiosa perdita di tempo e di energia. A volte si nasconde bene, come succede sovente anche nel contesto delle donne che subiscono violenza domestica. Bisogna aprire la scatola e spiegare cosa si intende per conflitto, come altrettanto bisogna spiegare come si articola la violenza. Una botta di là, una denigrazione di qua, per cogliere la realtà del fenomeno. Soltanto riconoscendolo si può evitare l'applicazione del solito giudizio maschile, spesso delle stesse donne sulle donne e le loro bizze, che nega la realtà del loro vissuto, aprendo alla possibilità di accogliere e considerare una verità più ampia e più profonda dell'apparenza superficiale. L'altra contestazione dice: non c'è differenza tra i conflitti fra le donne e quelli fra donne e uomini o fra gli uomini. C'è invece. C'è differenza fra un conflitto con un oppressore o tra oppressi. Di fatto non esiste per le donne parità nella società attuale ed è indispensabile riconoscere questo come un aspetto determinante. Il campo che circonda l'avvenimento del contrasto definisce una disparità fra i sessi. E quindi le modalità e i limiti del rapporto, le speranze, le aspettative, le valutazioni sociali e il naturale accesso al potere personale. Un altro elemento determinante è che le donne entrano subito in sintonia fra loro su un livello poco praticato, poco percepito coscientemente e inesistente, se non proibito, nella cultura attuale. Vivono immediatamente un sapere disponibile e condiviso. Questa coesione tocca e attiva il campo morfico di cui parleremo, il campo morfico femminile, in cui esistono contenuti non condivisibili con altre specie e neanche con gli uomini. Anche se durante l'Inquisizione sono stati bruciati anche uomini, la maggior parte dei roghi è stata riservata alle donne come rappresentanti della cultura pagana, matriarcale e del sapere femminile in collegamento con la natura e la terra. Questa eredità storica ricopre le donne di vergogna, umiliazione, terrore, sfiducia e negazione delle loro facoltà intrinseche. Impedisce di vivere serenamente nell'adempimento della pienezza e integrità e si riversa in modo differente rispetto agli uomini nel rapporto fra loro. In seguito a questo sconvolgimento culturale, la donna nasce, da diversi secoli ormai e ancora oggi, nella convinzione di essere colpevole, sporca, inferiore e incapace, appendice di un qualcun altro in grado di comprendere com'è fatta la vita e come bisogna fare. Sarebbe ingenuo credere che sia un fatto sorvolabile. Bisogna scavare nel profondo per tematizzare il conflitto fra le donne come fenomeno e inventare un linguaggio adeguato per descrivere cosa sta davvero succedendo. Quanto fa male, quanto occupa i nostri pensieri. Spesso rimane lì, come un ulteriore avvenimento non definibile, anche se ci fa soffrire, anche se limita le possibilità di realizzare progetti fra donne e lascia delle ferite che ci rendono caute e rassegnate, che ci incitano a rinunciare e a ignorare le vocine che cantano di altro. I desideri di concetti alternativi di quotidianità e convivenza, il più delle volte si schiantano lì, contro quel muro che puntualmente si impone, nonostante impegni profondi e onesti. Quando l'argomento viene affrontato, in genere ci si occupa del sintomo, cioè il conflitto, come elemento ripetitivo negli ambiti della concorrenza riguardo a un uomo, una posizione, un possesso. Ma raramente si procede interrogandosi sulle sue origini. L'atteggiamento psicologico della società occidentale ci lega al solo livello umano, limitato alla nostra incarnazione fisica odierna, e non va a cercare un'origine della lite con l'amica o delle difficoltà con la collega che vada al di là del livello interpersonale. La comprensione delle origini del conflitto fra le donne, invece, può essere trovata proprio lì, nel campo morfico che collega tutte noi, sia come storia personale che come flusso di memoria presente nelle cellule dei nostri corpi. Mettere sul piatto l'argomento del conflitto fra le donne, farlo emergere dal buio segreto da cui esercita un potere notevole e misconosciuto, è un primo atto di guarigione. Si può lavorare soltanto con elementi conosciuti, finché uno schema o la causa di uno schema rimangono in una zona non accessibile alla percezione mentale o emotiva. Il comportamento che ne consegue obbedirà ai dettami di questo schema, senza esserne consapevole, ripetendo in modo coatto la sequenza di disagio e dolore. Confrontarsi sulle radici del conflitto fra le donne non soltanto può portare a un maggiore benessere personale, ma contribuisce a una visione trasformata dell'agire individuale all'interno delle coordinate dell'epoca attuale. Volgersi verso questa tematica è l'atto politico responsabile per uscire dalla partecipazione inconsapevole a un concetto di vita che, alla fine dei conti, porta alla distruzione di questa terra. In una panoramica che oltrepassa i limiti della percezione ristretta che ci viene insegnata, avventurandosi verso altre capacità ed estensioni, si possono trovare nuovi strumenti e illuminazioni. È possibile arrivare a una comprensione più ampia, integra e completa, che facilita la generosità verso le difficoltà di ciascuna, noi stesse in primis, collocandoci in un contesto molto più vasto che permette di accedere a variazioni creative nell'essere e agire anche in situazioni critiche. Il dono oltre l'accusa. Anche il conflitto fra le donne, come ogni difficoltà nella vita, può essere accolto come una grande occasione per nuovi insegnamenti. La crescita può iniziare quando ci si permette di osservare con perspicacia e onestà quello che sta succedendo, invece di essere invase dagli avvenimenti come se fossero generati dall'esterno. Osare la ricerca presuppone che ci siano strade altre, magari migliori, e permette di intuire l'enorme occasione che aspetta là come un regalo se si asseconda la necessità esistenziale di uscire dalla sofferenza per lanciarsi verso la guarigione. Osare la ricerca è un cambiamento del punto di osservazione che include la possibilità di percepire una propria partecipazione all'evento e quindi una propria responsabilità per quello che succede, anche per la propria sofferenza. Parte indispensabile del conflitto è l'accusa. Sia gridata, sussurrata, sottintesa, rimproverata, sia espressa venendo alle mani o con un atteggiamento di impotenza aggressiva, l'accusa svela già la direzione del movimento. La causa viene cercata là, al di fuori del mio essere e del mio raggio di potere, in un'altra persona o in circostanze che mi sembrano fuori dalla mia portata. Con l'accusa si delega all'esterno la responsabilità per gli avvenimenti della propria vita. Contemplare la responsabilità della propria realtà vissuta permette di sviluppare in seguito il potere di cambiare. Con il conosciutissimo «sei tu che fai», «sei tu che dici», «sei tu che hai», esclamato o pensato come l'origine delle difficoltà, oppure nella versione loro, se si tratta di un gruppo o del sistema, tutta la responsabilità per l'evento sembra provenire da un'altra parte, da quella o quelle che provocano il conflitto, nonostante io sia così buona e ben intenzionata. Con questa mossa si esteriorizza il proprio potere. Il potere per quello che succede, e quindi il potere di cambiare. Il diritto all'accusa costituisce un pilastro fondamentale della religione patriarcale del Dio geloso. C'è il giusto e il torto, c'è chi ha ragione e chi sbaglia, c'è la luce e l'ombra è cattiva ed è di qualcun'altra, non fa parte di me. Da lì nasce tutto il male che poi mi assale e io non posso farci niente. Negare l'abisso interiore, svalutarlo come una parte meno preziosa e utile, lo costringe necessariamente a procedere verso l'esterno e da lì farsi avanti con il suo urgente richiamo di essere visto e accolto, con l'esigenza vitale di essere integrato e guarito. Porta inevitabilmente alla confusione pretendere che le sgradevolezze che arrivano dall'esterno siano gratuite e non collegate a me in modo imprescindibile. L'accusa contiene anche la pretesa che per migliorare la mia situazione siano gli altri a dover cambiare. Ascrivo all'esterno il potere sul mio benessere. Acconsento a una dipendenza esistenziale che mi permette di rimproverare, accusare, esigere con tutte le ragioni dalla mia parte. Con lo stesso movimento dell'accusa verso l'esterno arriva lo stratagemma dell'attacco-difesa. Qui si svela ancora un altro fondamentale aspetto della cultura e della filosofia attuale, cioè che il mondo intorno a me mi è nemico, mira a trattarmi male e minaccia la mia esistenza. Non sembra essere lì soprattutto per cullarmi, consolarmi, nutrirmi, divertirmi, accogliermi. Anzi, bisogna radunare le forze per affrontare i cattivi lì fuori. Visto che non sono disposti a comportarsi come dico io. Decidono sulla mia vita e quindi mi devo difendere dai loro attacchi. Qui siamo nel puro panorama di paura e scarsità, elementi base del patriarcato. Questo ragionamento non mira a negare l'esistenza di reali aspetti di paura profonda ed esistenziale, di un senso di scarsità e di minaccia alla sopravvivenza quotidiana, o le difficoltà apparentemente insuperabili create da leggi sociali e regole culturali. Vuole invece incoraggiare a vedere che non si tratta di realtà irremovibili, che analizzandola è possibile scoprire fino a che punto siamo partecipi delle condizioni difficili attraverso schemi interiorizzati e che possiamo riappropriarci della possibilità di cambiare. Il punto interessante può essere provare a uscire un momento dai limiti indotti e godersi il panorama più esteso in cui il fatto personale diventa un piccolo tassello di un disegno complesso e sensato. Allora può diventare più fattibile scrollarsi di dosso quelle impostazioni imparate per motivi di sopravvivenza o in altri contesti ormai non più validi perché risalgono a situazioni remote, impostazioni che non mi appartengono profondamente e che hanno lo scopo preciso di tenermi angosciata e quindi gestibile. Interrogarsi sul movimento dell'accusa e dello stratagemma dell'attacco-difesa, rintracciare la competenza e la responsabilità riguardo alla propria vita, mette in dubbio un intero sistema religioso e filosofico e ci porta a una domanda cruciale. Chi gestisce la mia vita? Chi è responsabile di quel che mi succede? Chi, in un'ottica ancora più estesa, ha scelto di essere qui ora, in questo corpo, con questi legami personali e familiari, in questa epoca, in queste condizioni e con questi avvenimenti? Sono disposta ad assumermi una responsabilità che a un primo sguardo può apparire alquanto scomoda, ma che ben presto mi dà il potere di modificare le condizioni che non mi sono più consone, o preferisco continuare a obbedire a un Dio che comanda e decide e agli esseri umani che lo rappresentano. Questa è una domanda di grande contenuto politico e culturale. Perché se decido di continuare a incolpare l'esterno, permetto anche a un potere esterno da me di gestirmi e partecipo alla legge patriarcale che ci vuole distaccate dalla fonte della vita e del potere. Se invece cerco di riappropriarmi della capacità di essere io, la causa e il potere che definisce l'andamento della mia vita e della mia incarnazione, anche quando non mi è del tutto comprensibile né accessibile, ne traggo forza e mi allaccio a una contemplazione della vita che concede un potere divino a me, a tutte, a tutto. Non ho bisogno di intermediari o di elementi esterni per stabilire il contatto verso quei territori solitamente gestiti da un'apparenza divina esterna come Dio. Il diritto di essere divina, come divine sono tutte le manifestazioni vitali, mi libera dalla dipendenza di eventi e persone. E mi apre l'opzione di interagire in maggiore libertà e con uno strumentario differente. Mi apre alla visione del nucleo divino intrinseco a ogni espressione della vita. Questo non vuol dire che con uno schioccare delle dita tutto andrà bene e avremo il pieno potere. È un processo che inizia con il permesso di riconoscere in se stesse, come nelle altre e negli altri, l'essenza di luce perfetta, sapiente oltre i limiti dello spazio-tempo e degli scenari storici. Essere divina mi dà il diritto magico del fare e disfare, la capacità di oltrepassare, se lo desidero, le impostazioni che mi hanno portata fino a qui. Non è marginale se mi considero senza o con gli strumenti per attingere a quel livello in cui si decide della mia vita. Non è marginale poter intuire finalmente che ho io stessa il diritto e le capacità di determinarne attivamente la direzione. Non è marginale comprendere in quale rete di accordi sociali e religiosi mi trovo e se ne sono inconsapevolmente invasa, oppure se decido di osservarli per capire come influenzano le mie convinzioni di base, il mio panorama emotivo, la mia autostima e la valutazione delle mie possibilità o impossibilità. Il paradosso conveniente. In una visione che oltrepassa la dualità, esiste il paradosso di seguire un cammino prestabilito e contemporaneamente definirlo in ogni istante tramite il proprio agire, sentire e essere. Letto in questa chiave, il passato, che sembra con i suoi fatti indelebili delineare in modo logico e casuale il presente e il futuro, può anche essere percepito come un elemento plasmabile quanto il presente. La percezione di avvenimenti passati può trasformarsi con il tempo, facendoci cogliere aspetti diversi, informazioni differenti, anche ad anni di distanza, svelandoci altri aspetti, orizzonti, espansioni. In ogni momento della vita c'è la possibilità di modificare quello che sembra definito da sempre e per sempre. Le rotte possono essere cambiate, le strade possono essere scelte, le condizioni variate o rivoluzionate, le eredità accettate o rifiutate. Esserne cosciente dona potere sull'andamento della propria vita. Osservando quanto sia diversa la realtà di un evento a seconda della percezione delle persone che vi partecipano e quanto diverso sia poi l'impatto dello stesso evento su quelle stesse persone, si arriva alla conclusione che non è l'evento che lascia l'impronta, ma la nostra reazione all'evento, dettata dagli schemi individuali che esistono nel nostro essere come meccanismi di sopravvivenza o strategie di salvezza. La realtà è cosa poco certa, ricca di sfaccettature e di disegni molto diversi per ciascun essere. Riconoscere che quello che percepisco è una mia realtà individuale e che la stessa situazione, per esempio di conflitto, può essere completamente diversa per la persona con cui ho a che fare, mi apre altre possibilità di comprendere e agire. Mi offre l'umiltà di riconoscere quanto in verità sono io a definire la mia realtà. L'umiltà di ammettere che esistono altri universi oltre al mio, altre comprensioni, sofferenze, sentieri, convinzioni. Ammettere la fragilità della propria realtà può essere un primo e fondamentale passo di esplorazione verso il dono che ogni situazione di difficoltà e sofferenza ha in serbo. È un cammino che può anche essere doloroso e faticoso. Si possono incontrare dei mostri nascosti da tempo, annidati nella sicurezza e nella stabilità del poter contare sul cibo quotidiano fornito dall'obbedienza alle proprie paure. Ma senza dubbio è un cammino che sarà premiato. Ogni movimento di apertura comporta più possibilità di collegarsi all'essenza della vita stessa, rimanere meno intrappolate in strutture rigide e anguste, quindi più probabilità di godimento, divertimento, creatività, bellezza e abbondanza. Ogni cammino di apertura e comprensione è sempre un movimento verso la guarigione, che è un atteggiamento doveroso non solo verso noi stesse, ma anche verso la terra e il mondo. È utile riconoscere che il proprio agire va oltre la sfera personale e relazionale del livello umano. Posso percepirmi come una piccolissima particella di un qualcosa di molto più grande e sviluppare la consapevolezza che io influisco con il mio sentire ed essere sullo stato di salute di questa realtà più ampia. Quello che sono, sento, faccio e desidero assume quindi un'importanza politica. Stare in questa consapevolezza evita di coltivare l'isolamento egocentrico, che con la sua illusione di protezione si ripete e tende a nutrirsi delle forze di chi entra nel suo meccanismo, fino all'esaurimento, la malattia, la depressione. Contemporaneamente si attinge a un campo che ha tutta un'altra potenza, in cui possiamo riconoscere il nostro sforzo, quanto quello delle altre e degli altri, per contribuire a un mutamento profondo che si riflette nella qualità della vita di ogni individuo e nel benessere della terra stessa. Se si manifesta il desiderio di cambiamento, è utile meditare come e dove può essere messo in atto. Esigerlo dall'esterno, come spesso succede nei movimenti politici di cambiamento sociale, è sicuramente utile per far notare le condizioni che generano malessere, ma se non si inizia da sé, qualsiasi cambiamento si infrangerà sugli schemi personali, riproducendo, magari in un'altra veste, esattamente quel malessere che si desiderava abolire. Il cambiamento si può attuare lì dove si ha accesso immediato, in noi stesse. Se cominciamo a disfare e sfatare i miti della cultura in cui siamo immerse e ad abbandonare l'idea che le cause di quello che ci succede giacciono al nostro esterno, allora il movimento si inverte, si affacciano domande diverse e l'esigenza di nuove visioni e strumenti. Ci riappropriamo di responsabilità e potere in una dimensione che è quella nostra naturale, ma che, in quanto donne, all'interno di un sistema preciso, non abbiamo più praticata durante gli ultimi secoli. La consapevolezza della propria responsabilità non implica la colpa per quello che ci accade, né si intende che, necessariamente, una qualche azione porti in linea diretta una risposta, né che esista un legame lineare causa-effetto o che si comprenda pienamente quello che si vive nell'arco della nostra vita. Piuttosto si vuole intendere che il motivo per la scelta, anche inconsapevole, di sperimentare un preciso vissuto giaccia negli schemi e nei disegni che ci distinguono come personalità inconfondibili e uniche, con un bagaglio di esperienze irripetibili e individuali, così come è singolare la richiesta di crescita, guarigione e illuminazione. La sofferenza è la gente che ci spinge con la sua insopportabile intensità fuori dalla situazione in cui si genera e verso alternative più gradevoli, più salutari, più vitali, verso l'agio, il benessere, verso il fluire con il cambiamento. Può essere confortante poter seguire il proprio fiuto mettendosi sulla traccia della trasformazione, della guarigione, dandosi anche il diritto al non sapere. Togliendo le connotazioni di bene-male, positivo-negativo, nocivo-benevolo o benefico, è possibile osservare l'intensità e il contenuto della sofferenza, ricondurla alla propria scelta di sperimentare proprio questo, ora, in questa vita. Il conflitto tra le donne si colloca proprio in questo scenario, nel suo rifarsi ai meccanismi dell'accusa, dell'esternalizzazione della responsabilità, del metodo dell'attacco-difesa, tutti elementi caratterizzanti il patriarcato e applicati in mancanza di altre proposte. Ogni donna partecipa nel presente al patriarcato, ne abbiamo interiorizzato gli schemi e ciascuna porta con sé delle paure degli abissi, dei paradigmi che sembrano immutabili e necessari alla sopravvivenza. Invece posso decidere se continuare a nutrire ulteriormente questo sistema o scegliere di assumere la responsabilità del mio vissuto, accogliendo ad esempio il disagio che mi arriva da un'altra donna in forma conflittuale come espressione della mia e della sua collocazione in questo scenario. Posso comprendere che un attacco, un litigio, un gesto di disprezzo, altro non sono che espressione di un malessere ben più grande, un malessere che riporta a una condizione condivisa di sofferenza e carenza. Il livello interpersonale ne costituisce solo il palcoscenico, non è la causa del problema. Non è lì che si trova la causa del conflitto, non è lì che può essere risolto. Per cambiare rotta, è fondamentale passare dalla cultura dell'accusa all'esplorazione del campo condiviso di ricerca.